Le donne sono state certamente, acclaratamente, nel senso che nessun giornale americano si dimentica di dirlo, la testa e il corpo dell'opposizione a Trump, della resistenza, come la chiamano loro, a Trump. Questo appunto è un fatto acclarato, molto riconosciuto e che anche, diciamo, genera anche molta riconoscenza nei confronti delle donne. Lo dico perché sono certa che in Italia non sarebbe stato così e non è stato così, per esempio, ai tempi dell'opposizione a Berlusconi. Cioè non c'è stata lo stesso riconoscimento né la stessa riconoscenza. Lo sono stato secondo me in modo molto intelligente, cioè ampliando, diciamo, passando da una politica di genere a una politica, come la chiamano loro, intersezionale, che è stata capace di allargare la base della resistenza a Trump, alle minoranze di colore, alla composizione molto variegata delle aree metropolitane e delle periferie metropolitane americane, che sono a loro volta la vera novità di queste elezioni, perché queste elezioni non ci consegnano più un'America rossa all'interno e democratica sulle coste, ma un'America divisa tra zone rurali e zone urbane. Nelle zone urbane, per l'appunto, hanno vinto i democratici e hanno vinto col sostanziale apporto delle pratiche delle donne, non solo delle candidature. Le candidature sono venute dopo 2 anni di radicamento sociale. Fatto, basta leggere i diari di queste donne, le loro interviste, i loro spot, eccetera, fatte veramente con una grande abilità di radicamento sociale. Io sono molto colpita da questo, perché è un po' un modo di fare politica a cui noi non siamo più abituate. Questi movimenti, questo femminismo intersezionale, questa rappresentazione comunque che ha visto appunto l'elezione di donne, ma anche di donne metisse, di soggettività LGBT, insomma davvero una realtà intersezionale che sembra incarnare un po' tutto quello che invece Trump disprezza. Ma è stata solo una reazione a Trump o invece è qualcosa che è destinato a durare nel tempo, speriamo anche più del suprematismo bianco, diciamo? Ma è qualcosa che è molto legato alla composizione della società americana. E infatti io guardo con molto sospetto e detesto abbastanza gli entusiasmi per questo termine intersezionale che sento talvolta nel femminismo italiano, perché bisogna intendersi molto bene su quello che significa. Intanto non significa, come era invece in passato, fare coalizione tra donne, minoranze di colore, LGBT, eccetera. Non è questo, è casomai quello che in Italia abbiamo chiamato una politica della differenza, cioè fare in modo che ciascuna parte della nostra identità parli con le altre parti dell'identità di altri. È una politica dell'alterità, diciamo così, dell'attraversamento delle alterità, quindi del rimescolamento. Non si tratta di mettere assieme donne, minoranze, LGBT, eccetera, eccetera. Si tratta di farle interagire e farle parlare. E questo è un cambiamento importantissimo negli Stati Uniti, che invece si è sempre fatto una politica delle identità, intesa come politica delle diversità, ma dove ogni diversità era un'identità chiusa. Queste identità si sono aperte, si sono rivelate in grado di intersecarsi. Per fare questo ci vuole molta pratica politica, molta capacità relazionale, molta capacità di parlarsi, di incrociare per l'appunto gli obiettivi e le condizioni, e questo è evidente che nasce in una società come quella, che è molto mista, molto multiculturale, multicolore, eccetera eccetera. Quindi nasce da una base sociale molto variegata. Credo che noi dovremmo essere molto attente a pensare a un'importazione facile di quella pratica, perché non è così facile da noi, nel senso che in Italia e in Europa la base sociale è ancora molto fortemente più monolitica che non negli Stati Uniti, quindi non è la stessa situazione, voglio dire.